America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. How did you come to know about this second meeting between President Trump and President Putin that the White House had never discussed? Well, look, I don't want to tell you who directly told me, but this is a meeting of the principals, so it's the G20. I know a lot of the people in that group. Ecco, la notizia l'abbiamo avuta da questo special televisivo di Charlie Rose. Devo dire, Trump non finisce mai di sorprendere. Solo ieri la Casa Bianca ha confermato che il presidente americano e Vladimir Putin si sono visti una seconda volta al G20 di Amburgo, per un'ora buona e con la sola presenza dell'interprete russo di Putin. Come mai? Beh, dice la Casa Bianca, perché l'interprete del presidente parlava solo giapponese. Ma non è normale che un presidente americano stia a parlare con un leader, per giunta con un leader russo, con il quale ci sono varie tensioni di vario genere sul piano personale, visto quel che sta capitando sul versante del Russiagate, con due paesi che sono comunque ai ferri corti l'uno con l'altro, e che eppure a livello di leadership sembrano mostrare una assonanza straordinaria fra i due presidenti. Ecco, ci sono alcune stranezze. Cosa si sono detti? Non lo sappiamo. Ma sappiamo che Trump, durante la cena offerta dalla Merkel, si è alzato, ha fatto il giro del lungo tavolo, è andato da Putin, che era seduto vicino a sua moglie, Melania, e poi i due hanno cominciato a parlare. Un'ora, vi dicevo, in aggiunta alle due ore che è durato il primo incontro, che era successo poco prima nel pomeriggio. Ecco, gli altri leader erano, come dire, intrigati da questa strana rottura del protocollo e da questa apparente avance del presidente americano nei confronti di quello russo davanti a tutti, per giunta. O Trump qui non sa bene come ci si comporta in un contesto internazionale, oppure ha voluto dare un messaggio. La stranezza, vi dicevo, è che Russia e Stati Uniti hanno un rapporto fra i più difficili negli ultimi 20 anni, ma i due leader alla fine flirtano insieme, attratti da qualcosa. Ma cosa? La notizia ha brevemente distolto l'attenzione dall'ultimo fallimento della Casa Bianca, il ritiro definitivo del progetto per la riforma sanitaria. Sentiamo. I've been saying that, Mike, I think you'll agree, for a long time. Let Obamacare fail, it'll be a lot easier. And I think we're probably in that position where we'll just let Obamacare fail. And then the Democrats are going to come to us and they're going to say, how do we fix it? How do we fix it? Beh, la notizia già l'avrete appresa. La defezione di due senatori, Moran del Kansas, Lee dello Utah, hanno di fatto sentenziato la sepoltura del progetto di riforma sanitaria che avrebbe dovuto sostituire l'Obamacare. Dopodiché, nel pomeriggio di ieri, Donald Trump dice, basta, passiamo al piano B. A questo punto lasciamo che questa Obamacare muoia da sola, che vada ad affossarsi da sola. A quel punto tutti saranno costretti a venire al tavolo dei negoziati e fare una proposta di legge nuova. Ecco, questo non capiterà mai. Ci sono stati già altri due senatori che si sono aggiunti agli altri per dire che loro non faranno mai morire la Obamacare. I numeri non ci sono e la matematica non è un'opinione e certamente non è una fake news, come ama ripetere Donald Trump. Tra l'altro, riferendosi appunto all'incontro, ha fatto subito un tweet dicendo: ma qui siamo arrivati all'assurdo, il fatto che mi sia incontrato con Putin durante una cena dove c'erano tutti i leader del mondo, certo non era un segreto. E beh, non sarà stato un segreto, però nessuno ha saputo di questo loro incontro fino a ieri, quando per caso Jan Bremmer, che è un analista politico, lo ha riferito dopo averlo appreso da qualcuno vicino ai leader che hanno partecipato agli incontri. Comunque sia, per l'amministrazione Trump il momento è davvero molto particolare e molto difficile, perché il fallimento del progetto di riforma sanitaria è anche il simbolo dei primi 6 mesi di una presidenza che è arrivata al capolinea prima ancora di partire. I 6 mesi formalmente scadono domani, ma ci siamo. E questi eventi che stanno capitando in questi giorni sono, secondo me, davvero simbolici di quella che è una decadenza profonda di questa presidenza. Anche perché dietro la mancata riforma c'è un partito repubblicano spaccato e allo sbando. C'è il disordine che regna sovrano alla Casa Bianca, la personalità fuori controllo di chi è stato eletto presidente e di una famiglia che non ha capito quanto certe formalità della capitale vadano rispettate. Questo lo notava il Wall Street Journal di ieri, ed è la prima volta che il quotidiano quotidiano economico e finanziario americano, che nella pagina degli editoriali, che è diversa dalla pagina di notizie, aveva sempre difeso, in qualche modo preso, capito le posizioni di Donald Trump. Anche su quel fronte, dunque, c'è una prima volta e c'è la delusione di chi ha votato per Donald Trump, aspettandosi veri cambiamenti per poi rendersi conto che le promesse elettorali non solo non sono state mantenute, ma non potevano essere mantenute. Anche sul Russiagate, che ormai in metastasi è minaccioso per la stessa sopravvivenza al potere, Trump si è comportato come Hillary, si è nascosto dietro un'ingenua, inutile omertà e dietro il solito slogan sulle fake news, soprattutto quando si è trattato di difendere il figlio, Donald Trump Jr., che prima diceva che l'incontro con l'avvocatessa russa non era nulla, era stata una cosa da niente, solo per parlare di adozioni, e solo dopo, quando è stato messo alle strette, si è capito che c'era qualcosa di molto più serio. Ma ormai con Donald Trump, devo dire, come dimostra quello che è successo al Senato, sono rimasti solo gli irriducibili fanatici, diciamo, che certo, per fortuna occorre dirlo, non formano la maggioranza degli Stati Uniti d'America. Se ci fosse stato un dubbio su questo, i risultati del più recente sondaggio del ABC Washington Post, ve l'avevo detto l'altro giorno, confermano questo quadro difficile per l'amministrazione. L'indice di gradimento per Trump è sceso al 36%, che è il livello minimo mai raggiunto da un presidente americano nei primi 6 mesi del suo mandato. E i democratici, sentiamo. We're not entrenched. We've been calling to work with our Republican colleagues. Well, we'll see. Let's find out. Ecco, chi parla è Chuck Schumer, leader della minoranza in Senato. Dice: non stiamo combattendo una guerra di trincea, siamo aperti a lavorare con i nostri colleghi repubblicani se la riforma sarà fatta come si deve. Vedremo, lo scopriremo nei prossimi mesi. Dunque un'apertura, ma per migliorare Obamacare, non per peggiorarlo come voleva fare Donald Trump. È difficile a questo punto anticipare quale potrà essere il percorso politico del presidente americano per poter salvare la presidenza, perché ormai e di questo devo dirvi, parlandovi qua da New York, dagli Stati Uniti, di cui si parla sempre più apertamente, chi si pone questa domanda come salvare la presidenza è proprio il Wall Street Journal, vi dicevo poco fa, dell'editoriale. Ed è la prima volta che abbiamo letto su queste colonne un attacco così duro e deciso contro la Casa Bianca di Trump. E dunque la coincidenza di questi fiumi in piena in un'unica equazione negativa che preoccupa, perché al di là dei punti di vista politici, avere un'America in difficoltà in un periodo così delicato e difficile per la politica internazionale, per il multilateralismo, è certamente un problema anche per noi, anche per l'Occidente. Devo dire, non è un bel momento per celebrare i primi 6 mesi di una nuova presidenza americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americano24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, una canzone legata al doppio filo alla presidenza Trump. You can always get what you want. Questa è stata una delle colonne sonore della campagna elettorale di Trump. Ve l'avevo proposta anche nella notte elettorale dell'8 novembre. Allora Trump smentì tutti i sondaggi, tutti i pronostici, ma a 6 mesi di distanza la realtà gli ha impartito una dura lezione. You can't always get what you want. Non puoi sempre avere quello che vuoi. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!